Buonasera a tutti, cari amici di Barbecue. Rieccoci qua dopo una bella settimana e dopo la puntata dedicata a Bologna avremo un'altra puntata registrata in Italia qualche mese fa, in particolare alla fine dell'estate, per cui i riferimenti che sentirete all'estate non sono per farvi ricordare i bei tempi che furono, il bel tempo, il caldo, eccetera, e ne nemmeno per farvi diciamo, distogliere l'attenzione da tutto questo caso del coronavirus, ma semplicemente perché abbiamo registrato l'intervista a settembre. Quindi, questa sera parleremo di letteratura e di romanzo giallo e se vogliamo, dopo la puntata dedicata a Bologna, che è stato uno spaccato sul sociale, questa puntata invece con l'intervista allo scrittore storico Roberto Pinocchi, se volete, è un po' riassunto delle puntate precedenti, cioè qualche settimana fa abbiamo dedicato una trasmissione infatti al teatro, all'opera e anche, sempre qualche settimana fa abbiamo dedicato la trasmissione alla storia del romanzo noir in Italia. Per cui la puntata di questa sera, tesse i fili, che avevamo già lanciato qualche settimana fa e li riunisce, perché appunto parleremo di, letteratura, di romanzo giallo, e di teatro e opera, proprio perché appunto lo sentirete tra qualche minuto quando metteremo in onda l'intervista, sì, si parlerà di un romanzo dove la storia tocca vari aspetti, uno dei quali è anche quello legato alla cultura e al teatro. A parte, ma naturalmente non vi sto a svelare di più perché l'intervista vi conviene e vi consiglio proprio di ascoltarla e non mi va di darvi troppi elementi. Vi ricordo che, come sempre, noi andiamo in onda in replica il martedì e questa è la novità del 2020. Abbiamo finalmente scoperto la data nella quale noi andiamo in replica e soprattutto vi ricordo che potete seguirci anche da streaming sulle frequenze di Radio Alma 101.9 FM a Bruxelles e dal sito radioalma.eu. Quindi non vi resta che rimanere sintonizzati per questa ora con noi. Siamo a Barbecue, siamo a Radio Alma, per cui una pausa musicale e poi via alla nostra intervista. Buonasera a tutti, ai nostri ascoltatori di Barbecue. Abbiamo un piccolo regalo. Durante le vacanze estive sia io che Fabrizio, siamo riusciti ad andare in Italia e abbiamo avuto la possibilità di intervistare alcune persone molto interessanti. E in particolar modo oggi siamo con Roberto Pinocchi, storico e scrittore di Montecatini Terme in Toscana, col quale dialogheremo sul suo ultimo romanzo, La strana fuga del tempo, ed in particolar modo vorremmo sapere che cosa successe ai bagni di Montecatini nel 1882, perché così inizia il suo romanzo. Allora, grazie intanto di questa occasione che mi fornite, in particolare a te Daniele. E io sono montecatinese, sono nato in questo paese, quindi le mie produzioni, chiamiamole letterarie, questo è il mio secondo romanzo, si riferiscono in modo specifico alle storie del paese, alle storie montecatinesi. E una delle storie montecatinesi più accattivanti, diciamo, ha come personaggio principale il personaggio che arriva ai bagni di Montecatini appunto nel 1882. In quella data lontana è Giuseppe Verdi che arriva nella città termale per cercare di porre un freno alla ipocondria che lo attanagliava da molti anni, quindi alla paura di essere malato, alle malattie e anche a una vera e propria necessità insomma, di passare le acque, quindi di curarsi in qualche modo, e quindi questo è l'incipit, diciamo così, di questo romanzo, l'arrivo di questo personaggio celebre ai bagni di Montecatini. Ma Roberto, il tuo romanzo che ho letto mi è piaciuto tantissimo e sullo sfondo dell'arrivo di Verdi a Montecatini succede qualcosa. Ma succedono tante cose, ci sono degli intrighi abbastanza intricati, scusate il gioco di parole, ci sono personaggi che sbucano fuori, ci sono personaggi che richiamano le sue opere, c'è un po' di giallo, nel senso che c'è anche un omicidio, c'è un traffico, direi quasi internazionale, Sì. di diamanti, insomma ci sono varie sfaccettature e poi sullo sfondo c'è un episodio della vita del maestro che ovviamente però mi sono inventato di sana pianta, nel senso che Giuseppe Verdi aveva come uno dei suoi crucci massimi quello di non avere figli, cioè ne aveva avuti due in gioventù dalla prima moglie Margherita Varezzi, ma erano morti entrambi nel giro di un anno di malattia quando lui era molto giovane, prima dei suoi 30 anni. E quindi in questo romanzo mi sono inventato il fatto che lui potesse invece aver avuto una figlia. E questa figlia, insomma, sbuca fuori. Ora non diciamola tutta, No, ma no, insomma, non sveliamo non tutto, sveliamo ma la tutto. storia è molto interessante, appassionante, ed è un susseguirsi di avvenimenti che richiamano anche diciamo, l'esperienza all'estero dello stesso maestro, e noi, essendo appunto all'estero a Bruxelles, siamo molto interessati a questi collegamenti Italia-estero. Tu hai detto che questa è una storia che ti sei inventato, che c'è questa diciamo, finzione letteraria. Però il legame tra il maestro e la città è reale. Sì, il legame di Giuseppe Verdi con Montecatini è reale e ha durato dal 1882, come ho detto, fino al 1900, cioè per 19 anni consecutivi, tutti gli anni, senza saltarne nemmeno uno, Verdi è venuto a Montecatini. I primi anni con la moglie, Giuseppina Strepponi, e con la soprano Teresa Stolze, che era una delle sue soprano preferite, poi con la morte della moglie, con la soprano Stolze soltanto. E lui era venuto a Montecatini perché gli era stato indicato questo luogo da alcuni amici che già lo frequentavano e quindi c'era questa voglia appunto di verificare sul posto se effettivamente il luogo, i bagni di Montecatini, fossero un ambiente tale da poterlo far, se non guarire, perlomeno migliorare da quella che appunto ho definito ipocondria, che lui ovviamente non definiva ipocondria, definiva malattie, erano malattie abbastanza immaginarie, ma quando usciva dai bagni di Montecatini era come se uscisse da un lavacro e quindi era portato a produrre ancora di più, non per niente, a Montecatini stesso, cioè ai bagni di Montecatini, ha composto sia l'hotel che parte dell'hotel che parte del Falstaff. Ora una pausa musicale, ma rimanete con noi per la seconda parte dell'intervista. Allora, sempre riprendendo il discorso del maestro e di Montecatini, che cosa ha lasciato il maestro a Montecatini? Ma il maestro ha lasciato una presenza che è sempre attuale e sempre sentita da tutti i montecatinesi. Non per niente nel 2013, quando ci fu il centenario della morte del maestro, scusate, del bicentenario della nascita del maestro, è stata fatta una statua, un monumento che è stato apposto davanti a un teatro all'aperto, un'arena che si chiama per l'appunto Verdi. La strada principale di Montecatini si chiama Viale Giuseppe Verdi e quindi in pratica, insomma, moltissime cose richiamano la presenza del maestro, anche se sono passati per l'appunto dalla sua morte più di 100 anni. E quindi, come vi ho detto, la Locanda Maggiore, l'albergo dove scendeva lui, che era il primo albergo di Montecatini della fine del Settecento, è ancora in funzione, è ancora conserva al suo interno un busto del maestro e una lapide che è stata dettata più di 100 anni fa dal gestore dell'albergo che si chiamava Melani, dal figlio di questo gestore, è stata dettata questa lapide che richiama per l'appunto la permanenza del maestro a Montecatini per quasi 20 anni. Ecco, per riprendere invece, ritornare al romanzo, la permanenza del maestro in quell'anno, nel tuo romanzo, naturalmente, nella tua finzione letteraria, è una permanenza un po' movimentata, Sì, diciamo così. Se è un... vogliamo, diciamo, invogliare i nostri ascoltatori che potrebbero diventare lettori del tuo romanzo, che cosa gli potremmo raccontare, per esempio? Ma gli potremmo raccontare, per esempio, che quando arriva a Montecatini, una delle prime persone che incontra è Temistocle Solera. È un nome che a molti non dirà niente, ma se dico va pensiero, comincia a aprirsi qualche Ecco. spiraglio. Temistocle Solera è l'autore delle parole del libretto del Nabucco e quindi anche del Va Pensiero, delle parole del Va Pensiero. È a Montecatini perché vuole rincontrare Verdi dopo molti anni per questioni personali, anche per questioni di economiche, diciamo così. Insieme a lui arriva una comitiva, una compagnia di guitti che devono mettere su uno spettacolo e fra questi guitti ci sono dei personaggi che richiamano un po' le opere del maestro e nel finale del libro si riveleranno per la loro natura vera e propria, insomma, che è quella legata alla produzione, alla produzione musicale di Giuseppe Per cui vi invitiamo veramente a leggere questo Sì, romanzo. poi ci sono altri personaggi, questi sono personaggi reali, ovviamente. Poi c'è un Certo. personaggio, personaggi inventati che mestano un po' nel torbido, diciamo così, cioè c'è anche una questioni di gialle, come ho detto, per cui ci scappa il morto, per cui ci scappa un commercio di diamanti, e poi ci scappano moltissimi ricordi. Non per questo il titolo del libro è La strana La fuga fuga del del tempo, tempo. perché in pratica è un continuo rincorrersi dei fatti, degli episodi che si accavallano e si mischiano fra di loro fino a portare a dei momenti addirittura così complicati, sia per i protagonisti e anche perché ci sono diversi filoni, diciamo, del racconto che Sì. si intersecano fra di loro e quindi è una cosa che mi ha divertito e mi ha impegnato anche nello Ma scriverla. devo dire che ha anche divertito il lettore e devo dire che ha invogliato il lettore a scoprire di più di Montecatini, di cui tu descrivi sullo sfondo anche lo sfarzo o comunque una crescita importante nell'ambito del turismo che poi sarebbe continuata per diversi anni, di cui poi magari ci parlerai anche un attimo. Ecco, un lettore che non conosce questa città potrebbe benissimo, leggendo il tuo romanzo, essere invogliato a venire a visitare la città che magari ad oggi, come abbiamo già parlato un'altra volta, non ha più quello sfarzo che vi era fino a 50 anni fa, diciamo, ma che comunque conserva ancora notevoli insomma, strutture, le terme, un parco alberghiero importantissimo e un sacco di posti interessanti dove sono Sì. Sì, successe tante cose dove sono stati visitati da tutta una serie di personaggi. i personaggi che sono stati a Montecatini sono moltissimi, non per niente qualche anno fa sul viale principale, sul viale Verdi, sul marciapiede del viale Verdi sono state apposte delle Tipo targhe Hall of Fame. tipo Hall of Fame e che richiamano i personaggi che vanno dal Granduca Pietro Leopoldo, cioè dal primo artefice delle terme montecatinesi alla fine del Settecento fino all'epoca moderna, fino agli attori americani degli anni 50, i musicisti, gli storici, gli artisti, gli sportivi, Per i insomma, nostri amici ogni del Belgio vorrei ricordare che, non so, Eddy Merckx, ecco. Eddy Merckx. Addirittura c'è una gigantografia che Sì, è vero, è richiamata vero, sul viale è dove vero, Eddy è vero. Merckx è all'interno delle terme e sta bevendo proprio all'interno del tettuccio, sta bevendo con il bicchiere, perché venivano qui, venivano anche a fare delle specie di ritiri, e lo fanno ancora delle squadre ciclistiche, e una di queste fu quella di Eddy Merckx, per l'appunto, Gimondi, e altri Nencini, andando a Bartali, andando nell'epoca storica, insomma, e poi moltissimi altri personaggi, insomma. No, ma la città è stata, diciamo, visitata, vissuta da, potremmo dire, i VIP di una Sì. certa epoca, fino a, diciamo, cinquantina, quarantina Ma di anche anni fa, meno, sì, anche anche meno, meno. e vi invito tutti a visitare, anche perché Montecatini non solo è graziosa, conserva tutto questo parco termale bellissimo, ma è anche al centro della Toscana e Sì, permette sì, sì. di poter visitare tutta la regione Certo. comodamente col treno, addirittura. Sì. Ci sono ben due stazioni a Ci Montecatini. sono due stazioni, la centro e la centrale del centro, quindi una un pochino più periferica e l'altra proprio centralissima, a 100 metri dalla piazza centrale. Ci sono gli aeroporti di Firenze e di Pisa, quindi che sono abbastanza vicini e serviti tutti dall'autostrada. Insomma, è servitissimo, e poi considerate che siamo a 40 km da Firenze, a 50 km da Pisa, a 20 km da Lucca, poi Fatti. c'è Torre del Lago, Vinci. Ci sono un sacco di Colloni località, per i bimbi. poi c'è una grandissima pineta chiusa ovviamente al traffico, e molto ben servita, dove è possibile passeggiare. All'interno di questa ci sono le strutture sportive con i campi da tennis, insomma, e tutti gli vari stabilimenti. Insomma, è un posto dove ancora, anche se non siamo più al tempo di Verdi, Però ovviamente, però ci si viene bene e ci si può passare come allora, una bella vacanza rilassante per cui io invito tutti, i e nostri ascoltatori, curativa. infatti, perché al giorno d'oggi, specie per i nostri ascoltatori di Bruxelles, nelle lande invernali e nelle nebbie autunnali del Belgio, potrebbe far bene venire a svenare un po' a Montecatini. E io consiglio ai nostri ascoltatori di iniziare magari ad approcciarsi a questa realtà leggendo il romanzo di Roberto Pinocchi, La strana fuga del tempo, edito da MDS Editore. Potete benissimo trovare tutti i riferimenti su internet e anche acquistare il romanzo direttamente sul sito mdseditore.it, e quindi magari per preparare appunto questo viaggio leggete questo romanzo e poi venite a scoprire la località, la bellissima località di Montecatini e tutte le sue molteplici sfaccettature. Ma prima di chiudere l'intervista con Roberto, siccome siamo rimasti molto contenti alla lettura e molto interessati, diciamo, colpiti favorevolmente da questa lettura, vorremmo sapere che cosa bolle in pentola, se vi è un seguito a questo romanzo o se nella sua produzione letteraria ha già pensato a qualcosa, insomma, per i prossimi mesi, magari per le vacanze di Natale, una nuova uscita letteraria. Sì, dunque, te sai che la mia voglia primaria, il mio profilo primario è quello di storico, Certo. e io ho scritto diversi libri di storia, e quello, diciamo, è il mio, tra virgolette, mestiere principale. Ma ora ho preso abbastanza gusto al fatto di inventarmi delle storie, perché quando si scrive di storia, ovviamente bisogna rifarsi ai documenti e quindi non ci si può inventare niente. Mentre quando si scrive un romanzo ci si può anche Tutto giocare si può sopra. concedere, E infatti. sempre romanzi storici, diciamo così. E ora sto ultimando un altro romanzo di carattere di sfondo storico, dato che quest'anno è il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci. Diciamo che Leonardo in qualche modo c'entra, è un nostro compaesano, perché è qui, è nato a Vinci, che è nemmeno qui a 15 km da Montecatini, quindi vicinissimo. Io ho visto la casa natale di sua. Non molto tempo fa, insomma, è ancora mantenuta, c'è un bel museo dentro, e quindi è anche un'altra gita che si può benissimo fare partendo da Montecatini. E quindi sto ultimando, diciamo, questo libro che ha sullo sfondo il codice sul volo degli uccelli di Leonardo. Vero. È molto romanzato anche questo, ovviamente, perché, come vi ho detto, mi diverto a inventarmi delle storie. E noi ci divertiamo a leggerle e speriamo soprattutto di poterti riascoltare tra qualche mese dopo che questo romanzo verrà pubblicato. Noi ti ringraziamo per questa intervista e tutti i nostri ascoltatori di Barbecue sanno che potranno ritrovarla sulla nostra pagina Facebook e non appena la pubblicheremo, naturalmente la condivideremo anche con te. Grazie a voi. Noi ringraziamo Roberto Pinocchi e con lui tutti gli ospiti che hanno partecipato alle trasmissioni e vi ricordiamo che appunto saremo in replica martedì prossimo per chi si fosse sintonizzato solo ora e naturalmente volesse non perdersi questa intervista con lo scrittore storico Roberto Pinocchi. Vi ricordiamo che siamo in onda sulle frequenze di Radio Alma 101.9 FM e che potete seguirci e commentare e condividere sulla nostra pagina Facebook Barbecue. Daniele e Fabrizio vi salutano e vi auguro un'altra buona settimana.